E di nuovo in diretta colazione con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. La sigla è quella di Altri Suoni, la presentazione di un lavoro edito dalla prestigiosa Parco della Musica. La protagonista è una contrabbassista già riconosciuta, anche se giovanissima, come talento assolutamente non solo promettente ma più che confermato, nelle sonorità che sono spettro di ricerca ma nello stesso tempo un'estensione nel mondo della contemporaneità che prevarica spazio e tempo, come ho detto prima. Per quanto riguarda Federica Michisanti, il suo ultimo lavoro che la vede con co-protagonisti musicisti di cui parleremo. Beh, ogni disco porta novità, ogni disco porta ricerca. Federica ha il talento di riuscire a donare tutto ciò con una grandissima naturalezza e un piacere all'ascolto che va nella ricerca con gusto musicale che spazia veramente, mettendo assieme un interplay quanto mai eterogeneo, ma soprattutto con uno sguardo sempre in avanti. È un disco che vede dei musicisti come Luis Clavi, come Michele Rabbia alla batteria, Vincent Courtois, di cui appunto con una formazione con una luce così speciale dà al titolo allo stesso modo un paragone e un confronto che anche per me è stato così illuminante, perché parliamo di pomeriggio o pomeriggi, per meglio dire. Il titolo è Afternoons, Federica Michisanti, con questo tema conduttore, con questo filo conduttore e le sonorità che ascolteremo anche a breve. Anzi, adesso lanciamo subito un brano che ci farà da base per commentare queste note. Con le luci del pomeriggio, il titolo è Afternoons. Un'attenzione a questo segmento esteso di giornata. Per me il pomeriggio è la notte, ecco, è stato il primo la prima impressione davanti a questo contenuto. Alzandomi presto la mattina, per me il pomeriggio il più delle volte diventa, non dico un recupero, ma una naturale parte del sonno, coadiuvato anche ovviamente dalla classica modalità siesta. Ecco, per me è qualcosa di più di una siesta. Quindi quando ho letto nei commenti e sentito anche nelle sue parole qualcosa che, beh, non è poi per tutte e per tutti così, ci mancherebbe, lo credo bene, perché il pomeriggio dà una seconda possibilità, è un'altra giornata. Sì, la giornata è già iniziata, però al pomeriggio vi è la possibilità di rivivere oppure di iniziare nuovamente. Sì, anche dalle note che stiamo ascoltando vi è una colonna sonora a queste sensazioni che ho dato così, cercando di interpretare anche l'idea di Federica. Ho contattato Federica innanzitutto per questa interpretazione, sentiamo se è stata giusta oppure se, come al solito, ho travisato, e poi ascolteremo un po' di musica tratta dal disco Afternoons e ascolteremo anche le collaborazioni e la genesi di questo lavoro. Sì, esattamente, cioè questa è la sensazione che a me dà il pomeriggio, no? Che uno pensa, dopo pranzo, la stanchezza, invece per me è proprio un nuovo inizio, come dire, ancora ci sono tante ore della giornata e posso fare ancora tante cose, e poi io trovo che sia meravigliosa la luce di alcuni pomeriggi, sia quella dopo pranzo ma anche quella più verso il tramonto, che non lo so, a me riporta un qualcosa, mi apre tipo un qualcosa che mi porta verso l'infinito. Sono sensazioni personali, ecco, magari difficili da spiegare. Però dopo queste appunto emozioni personali, che tra l'altro sono altrettanto incisive rispetto a quelle poi che vengono tradotte in note, il tuo lavoro dal titolo Afternoons, l'etichetta Parco della Musica, abbiamo tutti i tuoi dischi, adesso parliamo di quest'ultimo, e io ho notato che ogni disco ha una struttura, una composizione, una partecipazione completamente diversa dall'altra, insomma, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, beh, intanto questa volta diciamo c'è la novità della formazione, perché per la prima volta in un mio disco c'è uno strumento, diciamo, percussivo come la batteria, anche se Michele non è il batterista classico, no, che fa da sezione ritmica. Michele è proprio un artista e usa, infatti, a parte oltre alla batteria elettronica, ma tantissimi oggetti che sono fuori dal comune, no, per un comune set da batterista. E quindi, diciamo, ecco, stavolta questa è la grande novità, insieme al violoncello, insieme ai clarinetti di lui. Cosa dire, altri dischi magari li ho strutturati più con un'alternanza di composizioni e improvvisazioni estemporanee. In questo caso anche c'è ancora questa mia usanza, diciamo, però sono anche più composizioni a sé stanti, cioè ci sono dei piccoli raccordi di improvvisazione libera tra almeno un paio di tracce, ecco, tra Nocturne e Spot, però sono, diciamo, ecco, composizioni abbastanza autonome, diciamo, l'una dall'altra. Capacità d'espressione diversa, eterogenea nei lavori che abbiamo ascoltato di Federica, già abbiamo conosciuto la sua musica con Jazz Live, un appuntamento nella rassegna Monday Night Road del Torrione mi ha portato alle sonorità di Federica con grande interesse, perché appunto dà un motivo per alzare l'asticella nell'ascolto, essendo così giovane, ormai affermata e confermata. Le collaborazioni, Luis Clavi, che stiamo ascoltando nella solo precedente, Michele Rabbia, batterista atipico come è stato presentato, ma allo stesso modo insieme a Sclavi un complemento per la rotondità del suono. In altri lavori l'aspetto del contrappunto, l'aspetto di una segmentazione, di una frazione frammentazione, destrutturare il suono per poi riprenderlo in una continuità quanto mai colta. In questo caso l'aspetto di rotondità è più presente, resta sempre una ricerca e un grande gusto. Stiamo ascoltando un brano tratto da Afternoons e questa filosofia pomeridiana che purtroppo mi sfugge, ma per quanto riguarda la musica ho colto con grande interesse. Cose che compongo poi alla fine sono il risultato di tutto quello che ho ascoltato nella mia vita. Ho ascoltato anche tanto jazz e quindi sicuramente c'è anche questa componente. E stavolta, diciamo, forse la differenza rispetto almeno a livello compositivo rispetto agli altri dischi è che alcuni brani li ho composti da un'idea al contrabbasso, perché in genere magari butto giù delle idee al piano. E forse in questo senso magari ci sono più elementi ritmici rispetto in alcuni brani, tipo, non so, mi viene in mente Sufi Loft oppure la stessa Spot. Insomma, sono caratteristiche leggermente diverse rispetto alle composizioni dei dischi precedenti. Poi appunto per quanto riguarda il jazz, sicuramente c'è del jazz, come ci sarà, penso, influenza della musica classica che ho ascoltato tanto, oppure del rock. Nell'eterogeneità della composizione una delle caratteristiche tue. Edizioni Parco della Musica, Afternoons è uscito di recente e quindi un po' un'anteprima che portiamo sui 103.1 in Jazz Live. Io mi auguro di sentirti e di vederti presto e ovviamente una buona giornata, un buon pomeriggio, dai, anche così. Grazie William, grazie, speriamo di vederci prestissimo. Molto immediata, io ho parlato di rotondo, giustamente lei ha dato una circolarità grazie alla composizione di ritmica, al contrabbasso e alla batteria e allo stesso tempo il suono pieno di sclavì che va a commento, a intersezione con un interplay perfetto tra l'altro fra i musicisti. Delle più talentuose secondo me, ma anche a livello di panorama internazionale, eh? Quindi ribadisco le edizioni Parco della Musica, una label molto prestigiosa, Federica Michisanti Quartet con il featuring di Louis Clavy, Vincent Courtois e Michele Rabbia, Afternoons è il titolo del suo lavoro che stiamo ascoltando. Grazie Lino che scrive al 333-180-9494. Io sono andato venerdì al Torrione, posto bellissimo. Sì, grande, mi fa piacere Lino. approfitto per ricordare il 333-180-9494 perché a breve avremo i magazine e per voi ci sarà un lavoro, un saggio dedicato al teatro, o meglio ai teatri. Poi vi spiegherò perché è il personaggio misterioso che mi dovrete poi dare come risposta per avere questo lavoro, sarà anche lui protagonista all'interno della nostra rassegna stampa culturale. Tra poco, pubblicità!